edizione. Ancora una notizia economica appena diffusa, appena battuta dalle agenzie e che arriva dal Giappone. La produzione industriale ha segnato un rialzo dell'1% a marzo, che sarebbe un dato positivo. Se non fosse, gli analisti si attendevano un più 2,4%. Sulla spinta del settore dell'auto e dei produttori di apparecchiature di telecomunicazione. Il Ministero dell'Economia, Commercio e Industria ha mantenuto il giudizio sulla produzione, che mostra movimenti al rialzo. Dunque vedremo come andrà anche per l'economia giapponese. Nel frattempo la borsa di Tokyo è in guadagno dell'1,30%, quindi un dato positivo. Noi ci fermiamo per la viabilità, ci ritroviamo subito dopo per un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Prima edizione. Sono le 6 e 19 minuti, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Vediamo su cosa aprono e su cosa puntano i quotidiani oggi in edicola. Temi tendenzialmente economici anche nella giornata di oggi, ma con molte differenze, perché c'è chi punta sulla politica economica e quindi sui partiti che avvertono Monti, come scrive La Stampa, o ora abbassare le tasse, come scrive Il Messaggero, tra virgolette, riferendosi appunto alla richiesta dei partiti. C'è chi punta sulle parole del Presidente del Consiglio Mario Monti, lo fa Il Sole 24 Ore, e c'è chi invece decide di aprire sul downgrade, sul declassamento del debito spagnolo. Così fa il Corriere della Sera: debito declassata la Spagna, mentre sempre all'interno dello stesso titolo, insomma tra occhiello e sommario, si parla degli altri temi economici, che la maggioranza che avverte Monti, il PDL, lavoro, si cambi o non si votiamo, più tempo per il 7.30, vertice a Bruxelles, la spinta italiana per la crescita. Però appunto l'apertura, il titolo forte è dedicato al debito e al declassamento della Spagna. È un tema del quale tra l'altro torneremo a parlare tra poco. Questo è il titolo forte di prima pagina sul Corriere della Sera, ma in alto troviamo invece una foto e un titolo dedicato all'altro tema che tratteremo più avanti, ossia l'incidente tra i Frecciarossa. Come avete sentito poco fa nelle strade in diretta, ci sono ancora problemi questa mattina, ci potrebbe essere ancora qualche disagio per chi viaggia in treno. C'è stata una collisione appunto tra due Frecciarossa, paura e malori. Un convoglio che stava avvicinandosi al binario è deragliato alla velocità di circa 30 km all'ora. Da segnalare dal Corriere della Sera, l'editoriale di questa mattina firma di Ernesto Galli della Loggia e parla dei partiti. Ci si sta concentrando molto in queste ore, in queste settimane, alla vigilia delle amministrative, a valutare la situazione dei partiti anche in rapporto a questa ondata di cosiddetta antipolitica. Ne abbiamo parlato ampiamente nei giorni scorsi, anche con le parole del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Nuovi scenari, antichi riflessi è il titolo del commento all'editoriale di questa mattina di Ernesto Galli della Loggia. Scrive, tra le altre cose, i vecchi partiti boccheggiano, i nuovi, sebbene annunciati, non si sa ancora se e quando e come vedranno mai la luce. Alla ribalta sembrano così rimanere sempre più solamente le persone. Questo tra le prime frasi dell'editoriale di Ernesto Galli della Loggia. C'è un titolo dedicato anche alla vicenda di La Vitola, che parla con i magistrati, quei 5 milioni chiesti a Silvio. Vi racconto i miei rapporti con Berlusconi e Finmeccanica. Questo il quadro. A proposito di inchieste, si parla anche della vicenda di Daccò, pagato per insistere, il sistema Daccò tra sanità e politica. Veniamo alla Repubblica che titola sul anche qua, come si diceva, sul declassamento della Spagna, sul declassamento totale del rating della Spagna. Il pressing della maggioranza su Monti, ora meno tasse e più crescita. E però il titolo di centropagina, seppur dedicato ancora alle vicende che riguardano la politica, le inchieste, i rapporti tra partiti, questioni di rapporti tra partiti e mondo degli affari, questioni di tangenti, è però dedicato alla Lega, perché c'è Belsito che dice Bossi sapeva tutto. Belsito, l'ex tesoriere della Lega. Per Formigoni nel frattempo spunta un'altra vacanza in Brasile e poi c'è il processo a Tarantini per l'escort al Presidente del Consiglio. C'è nello stesso titolo due vicende parallele e lombarde, perché il titolo è Belsito, Bossi sapeva tutto e Daccò che racconta i miei regali ai politici. Daccò, lo sapete, è l'uomo legato invece alla vicenda di Roberto Formigoni, alla vicenda, all'inchiesta insomma, che riguarda, che tocca anche il presidente della Regione Lombardia, nella quale è comparso il nome del presidente della Regione Lombardia. C'è anche un documento sul cosiddetto codice della Camorra, quella lettera allo zio, ecco il codice della Camorra, è un pezzo di Roberto Saviano. E a proposito di economia, la Repubblica ha un titolo dedicato anche a un pensionato su due che non ce la fa, vivere con 1000 euro al mese. 2,5 milioni di loro non raggiungono il tetto dei 500 euro. Questo il quadro dalla Repubblica che ha un calcio sul calcio, anche un bel pezzo di Gabriele Romagnoli dedicato a Mourinho, Mourinho in ginocchio, l'eroe dimenticato dal destino. Restiamo sui temi economici, andiamo sul Sole 24 Ore. Come si diceva, l'apertura è dedicata a Monti, Monti crescita priorità europea, piano di Bruxelles in 12 punti, Van Rompuy più risorse alla Banca Europea per gli investimenti. A proposito della spending review, c'è un servizio di Dino Pesole che ci racconta che la spesa sarà blindata fino al 2014, cioè invarianza di spesa tra il 2011 e il 2014. Il commento di prima pagina dedicato alla crescita è a firma di Guido Gentili, quella crescita da afferrare, si parla sia di Europa che di Italia. E l'altro titolo forte di prima pagina, affiancato subito a quello di apertura, dedicato alla vicenda Fonsai Unipol. Si attendeva la decisione dell'antitrust per l'acquisto insomma di Fondiera Sai da parte di Unipol. Ebbene, c'è stato lo stop. Il garante, rischio concentrazione nelle polizze. Blocco immediato delle delibere sulla fusione tra i due gruppi. Commento in prima pagina a firma di Alessandro Plateroti, vice direttore del Sole 24 Ore, imprese e mercato sotto esame. C'è un titolo dedicato anche a Standard & Poor's che declassa la Spagna, come potete ben immaginare, e sul caos e la paura a Roma Termini. Vi segnaliamo anche al Sole 24 Ore su fisco IMU, ecco cosa cambia per famiglie e imprese. Nel frattempo slitta il termine per il 7.30, prima consegna entro il 16 maggio, insomma. Continuano le guide del Sole 24 Ore alle novità fiscali. Come si diceva, il Messaggero e la Stampa scelgono invece un'apertura più politica, se vogliamo. Tasse, i partiti avvertono Monti, la maggioranza chiede meno spese e meno pressione fiscale. PDL avanti, ma nuova fase, così scrive la Stampa. Ci sono altri due elementi che vengono sottolineati, uno sulla spending review, tagli, la difesa perde le stellette, via un generale su tre, un colonnello su cinque e un soldato su sei. E ci sono altre due questioni economiche che vengono sottolineate. La TAV, 12 miliardi di vantaggi, l'analisi costi-benefici, il ministro che dice ora bisogna accelerare. E poi sulla vicenda Finmeccanica si parla sempre di Passera che difende Orsi e l'azienda, non si può destabilizzarla per un avviso di garanzia. A centropagina una bellissima foto. Perché è una foto di Oslo dove in 40.000 si sono raccolti vicino al tribunale dove si tiene il processo al killer, a Breivik, insomma il killer di Oslo. E c'è una canzone che Breivik aveva detto di odiare, l'inno all'uguaglianza, Children of the Rainbow. Ebbene, 40.000 persone in piazza a Oslo hanno intonato davanti al tribunale esattamente quella canzone. La stampa riporta in prima pagina la foto. Il Messaggero, come si diceva, ora abbassare le tasse, questo è il titolo principale, serve il cambio di passo, è il titolo del commento, oggi a firma del nostro Oscar Giannino. Dal Messaggero vi segnaliamo anche il di taglio basso, la vicenda di Simonetta Cesaroni, il delitto di Via Poma, perché oggi è attesa la sentenza Simonetta, la lunga attesa di Busco, sentenza d'appello per Via Poma. E divertente la vicenda che riguarda il Festival del Cinema di Roma. Festival del Cinema lungo un mese. Müller ha il piano, ma non ha il contratto. Questa la vicenda, il contratto del direttore ancora da firmare. E poi c'è un titolo dedicato naturalmente alla Lazio, all'Otito che viene squalificato per 10 mesi, notizia che vi abbiamo dato poco fa nello sport, e il titolo di centropagina è dedicato invece alla vitola, nessun ricatto a Berlusconi, ma un debito di riconoscenza, e poi ovviamente si parla anche dell'incidente a Roma Termini. Prima edizione. Sono le 6:36 minuti e 25 secondi. Prima di sentire Italia in controluce, c'è quello che è l'iniziativa della nostra giornata. Come sapete, diamo voce agli imprenditori in difficoltà con la nostra iniziativa Disperati Mai. Le email che potete mandare a disperatimai@radio24.it. Ebbene, oggi, come dicevamo, è una giornata di programmazione speciale per l'iniziativa partita 10 giorni fa. Moltissime le testimonianze che ci sono arrivate a Radio 24. Ogni giorno abbiamo dato voce appunto alle storie di imprenditori, artigiani, professionisti in difficoltà. Oggi lo faremo in varie occasioni, a partire dalle 8:30 con 24 mattino con Alessandro Milan e Oscar Giannino. Ebbene, noi in prima edizione vogliamo in qualche modo aprire la giornata con una delle prime lettere che ci è arrivata, ed è il racconto di Flavio, che dice: una storia uguale a mille altre che condivido con altri miei colleghi. Piccola impresa nel settore del commercio edile, con un giro d'affari di 4 milioni di euro. Nel 2008, antecrisi, avevamo affidamenti bancari per 2 milioni e abbiamo finanziato investimenti. Dal 2009 è iniziato a cambiare il mondo. I nostri clienti hanno cominciato ad andare in crisi, che sono i costruttori. Poi a non essere regolari con i pagamenti e le cose sono andate peggiorando. Poi sono arrivate le perdite sui crediti con i fallimenti e le chiusure. Un nostro cliente si è tolto la vita il 31 dicembre. Da lì iniziano le tensioni finanziarie, il rating bancario peggiora, le banche riducono gli affidamenti. Dalla crisi al panico. Oggi, aprile 2012, abbiamo affidamenti per 850.000 euro. Gli ultimi 100.000 ci sono stati ridotti un mese fa, alla faccia dei finanziamenti della BCE alle banche italiane. Siamo nel panico. La diminuzione dei fidi ci sta facendo fallire, non riusciamo ad onorare i fornitori e gli stessi ci bloccano le forniture finché non paghiamo il debito. Stiamo vivendo alla giornata, non so quanto riusciremo a sopravvivere. Stiamo ristrutturando, riducendo i costi il più possibile. Speculiamo anche sul toner della stampante, fra licenziamenti e cassa integrazione permanente abbiamo ridotto di 5 unità su 16 ed altre ne verranno in futuro. Abbiamo proprietà immobiliari che valgono più del doppio del nostro debito, ma ad oggi non siamo riusciti a vendere e realizzare per autofinanziarci. Se non succede un miracolo prima delle ferie di agosto, abbiamo chiuso. A mio modo di vedere, la politica è lontana dalla realtà. Per noi non è un problema dei costi della politica, dei benefit dei politici, dei finanziamenti pubblici, dell'articolo 18. Per noi il problema è la crescita, il finanziamento alle piccole e medie. Il mercato non c'è e le banche sono quelle che ci hanno rovinato dandoci affidamenti in momenti di abbondanza. Ci siamo esposti, nel momento di crisi ci obbligano al rientro. Per noi è una batosta. Pensate che se le banche non avessero chiesto il rientro, nonostante la crisi e le perdite sui crediti, staremmo ancora bene. Ma così non si può andare avanti. E questa è la lettera di Flavio. Quindi giornata di programmazione speciale, prima Italia in controluce e poi ci ritroviamo per parlare del taglio del rating della Spagna. Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati all'appuntamento con Italia in controluce. Venerdì mattina parliamo di scuola e di un caso che riguarda il Politecnico di Torino e l'uso della lingua italiana. Un caso che sta già facendo discutere. Sentiamo Maria Piera Ceci. Scuola in controluce. I consider that the flag of the United States not only a flag of a country, but is a universal message of freedom of democracy. Thank you, sir. Yeah. The English is very good. Please visit the website, but please visit Italy. We're the best country in the world in terms of culture, landscapes, art, history, cities. Force for what they did today. But I prefer that my chief tell in English what we do, what we. Oh, la rifacciamo tutta, perché la posso fare anche meglio in inglese, ragazzi. Eccolo qua l'inglese della nostra classe politica, anche se con il governo dei tecnici da questo punto di vista si è davvero fatto un gran bel passo in avanti. Allora, per spingere i nostri studenti ad impararlo, questo benedetto inglese, già da anni molte università hanno deciso di impartire alcuni corsi anche in lingua, dalle private Bocconi e Luis alle pubbliche di Torino e Roma. Ma ora al Politecnico di Milano si cambia davvero. I corsi dell'ultimo biennio della laurea specialistica saranno tenuti esclusivamente in inglese. Quindi stop all'italiano e alla possibilità di scelta. Una decisione che ha suscitato un bel dibattito. Abdichiamo allo strapotere dell'inglese, dice qualcuno, e ancora scelta inaccettabile per un'università pubblica. E allora sentiamole invece le ragioni del rettore del Politecnico di Milano, Giovanni Azzone. Tutto è nato da questa prima considerazione. Se io voglio essere abituato ad operare in un contesto internazionale, è bene che lavori con gli strumenti che servono in contesti internazionali già all'interno della mia laurea magistrale, quindi gli ultimi 2 anni di università. Ecco, per molti linguisti, studiosi, eccetera, è un errore culturale. Lei come risponde a queste accuse? Io credo che l'Italia possa avere un proprio ruolo se riesce a far comprendere al resto del mondo le cose positive che noi abbiamo. Per farlo comprendere però bisogna prima di tutto comunicarlo. E se noi non accettiamo di comunicare in un linguaggio che il resto del mondo oggi usa come lingua franca, come lingua internazionale in qualche modo, credo che sia molto difficile poi riuscire ad attrarre persone dal resto del mondo a studiare e lavorare in Italia. È tutto per questa puntata di Italia in controluce. Vi ricordo che potete iscriverci controluce@radio24.it. Buona giornata. Bene, sono le 6:42 minuti e 48 secondi, vediamo di fare un punto su queste giornate europee, per così dire piuttosto complicate. Abbiamo visto che il Presidente del Consiglio è appunto in una girandola di incontri da questo punto di vista, ma soprattutto che ieri sera è arrivata una discreta batosta per gli spagnoli. Laura Bettini, buongiorno. Buongiorno a te. Sì, la batosta che tu non hai voluto ancora rivelare agli ascoltatori è quella dell'abbassamento, un ulteriore abbassamento del rating, ma curiosamente i quotidiani spagnoli online non aprono stamattina su questa notizia, bensì sulla nuova operazione subita dal re Juan Carlos per la sua caduta durante una battuta di caccia in Africa. Ovviamente però la notizia sì, c'è poi. Sì, no, questo forse dà la misura di quanto, no, di quanto si prendano sul serio ormai le agenzie di rating. forse anche questo c'è. Comunque Standard & Poor's ha abbassato il rating a lungo termine sul credito sovrano della Spagna, che così è passato da A a B più, quindi tripla B più, ma anche il rating a breve termine si abbassa da A1 ad A2, la previsione sul rating a lungo termine è negativa. Come spiega Standard & Poor's questo taglio? Nella nota si parla di una traiettoria di bilancio che probabilmente peggiorerà alla luce della contrazione economica, di una probabilità crescente che il governo spagnolo debba fornire ulteriori aiuti al settore bancario, di un conseguente aumento del rischio che il debito netto del settore statale possa salire ulteriormente. Le prospettive negative sul rating, conclude Standard & Poor's, riflettono la nostra opinione di un significativo rischio per la crescita e l'andamento del bilancio. Le altre agenzie, questo chiosano anche i quotidiani spagnoli, al momento non seguono Standard & Poor's, quindi Moody's mantiene il rating ad A3 e Fitch resta su A. Il tema della crescita, che ha sottolineato Standard & Poor's nella nota sul declassamento, non è ovviamente un tema solo spagnolo, anzi ieri a Bruxelles il Presidente del Consiglio Mario Monti ha rivendicato di aver imposto la questione crescita nell'agenda europea e di avere incassato l'apertura da Berlino. Sentiamolo. Non è ancora il momento di ricette specifiche, del resto come sapete stiamo lavorando in stretto contatto con il governo tedesco e stiamo elaborando varie ipotesi. Ipotesi che Monti oggi presenterà al Presidente della Commissione Europea, Barroso, ma già ieri Monti ha detto qualcosa. Primo, il potenziale di crescita va aumentato facendo leva sulle riforme strutturali e quindi con investimenti nei settori chiave come trasporti ed energia. Secondo, no a politiche effimere e vecchio stile che creano solo una crescita illusoria. Terzo, le riforme strutturali sono fondamentali per aumentare il potenziale di crescita, ma da sole non portano crescita se non c'è una domanda dei beni e dei servizi prodotti. Considerato che paesi come l'Italia, che stanno facendo grandi cure di riforme e consolidamento dei bilanci, non generano spontaneamente molta domanda in questo momento, devono essere gli altri paesi a largheggiare con le politiche economiche, e il riferimento è ovviamente alla Germania. Alla Germania, naturalmente. Grazie dunque a Laura Bettini. Ora è il momento della viabilità. Ci ritroviamo subito dopo per parlare dell'incidente tra i due Frecciarossa. Prima edizione. Sono le 6:48 minuti e 20 secondi. Veniamo alla collisione che c'è stata ieri a Roma tra due Frecciarossa. Ci racconta tutto come sono andate le cose la nostra Adriana Fracchi. Adriana, buongiorno. Sì, buongiorno a te e agli ascoltatori. Come hai appunto detto, due treni sono entrati in collisione ieri sera all'ingresso della stazione Termini di Roma. Tanta paura, ma nessun ferito grave. Fortunatamente l'ANSA parla di 6 contusi, Repubblica di una decina, tra cui 5 sarebbero passeggeri che erano a bordo, mentre per l'ANSA sarebbero tutti personale del treno. Sull'episodio indagherà ora la Procura e le Ferrovie dello Stato hanno già aperto una commissione d'inchiesta. Interpellato uno dei due macchinisti ha detto: sono tranquillo, ho rispettato le regole. Secondo infatti una prima ricostruzione, i due Frecciarossa stavano entrando nello scalo romano a una velocità inferiore ai 30 km orari come previsto dalle procedure, quando uno dei due treni proveniente da Milano avrebbe scarrellato. Alcune vetture sono uscite dal binario urtando l'altro convoglio che proveniva da Napoli. Sempre secondo il sito di Repubblica, uno dei due treni avrebbe deragliato a causa del cedimento di una rotaia. Sarà dunque l'inchiesta ora a stabilire esattamente le cause dell'incidente. Sentiamo intanto un agente della Polfer di Roma al microfono di Vincenzo Miglietta. È stata una lieve collisione con pochi feriti fra personale dipendente. Il tratto interessato è stato bloccato, isolato. E c'è qualche ritardo, ma niente di che, insomma. Ecco. La stessa Ferrovia dello Stato parlavano non di un deragliamento, quindi. Ma il deragliamento, ripeto, c'è stata una lieve collisione fra due Frecciarossa, probabilmente ci sarà stata pure qualche carrozza che è andata fuori, ma niente di che, insomma. Una collisione molto lieve. Ecco appunto questo un agente della Polfer al microfono di Miglietta. Ovvie le ripercussioni sul traffico ferroviario con disagi e ritardi, come abbiamo sentito. I treni di passaggio per Termini diretti a Napoli, Salerno o a Milano sono stati deviati sulla stazione Tiburtina. È stato istituito un servizio di navette per portare i passeggeri da Termini a Tiburtina. E oggi, come abbiamo sentito anche dalla viabilità, dalle notizie sulla viabilità, verrà sostanzialmente garantita l'offerta delle Ferrovie dello Stato su Roma Termini. Potrebbero però esserci possibili ritardi. Ed è tutto per il momento. Grazie Adriana Fracchia. Noi chiudiamo così prima edizione. Un ringraziamento a Peter Bescapè in regia, Diego Rovelli in redazione. Grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Ci risentiamo tra poco con il giornale radio. Lunedì prima edizione torna con Anna Migliorati.